2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024. Come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica per raggiungerci, oltre a Facebook e a Twitter, 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Sono sempre più numerose persone che si abbonano al podcast di 2024, che è un termometro molto veloce per intercettare i nostri ascoltatori. Dunque, la prossima settimana dovrebbe essere approvato l'ormai famoso e attesissimo decreto comunicazioni che traduce in atti operativi, poi vedremo come, il piano strategico banda ultralarga del governo, ricordo approvato il 3 marzo, quindi sono già passati più di 3 mesi. Per il momento molto del dibattito della settimana si è concentrato sull'applicazione delle normative relative all'uso dei cookies su internet. Allora, sapete che i cookies sono quei pezzetti di software che, senza che noi ce ne accorgiamo, quando navighiamo su internet arrivano sul nostro computer e servono per varie cose, per tener traccia magari delle nostre preferenze, così che la seconda volta che andiamo su quel sito, il sito sa già e si posiziona, si predispone in un certo modo. Insomma, servono a tante cose. Allora, da questa settimana tutti i siti che usano cookies per profilare i comportamenti degli utenti online, quindi prevalentemente per motivi commerciali e spesso pubblicitari, devono mostrare un avviso sul quale uno può o non cliccare su ok, ma insomma diciamo che molti cliccano su ok, accetto, uno può anche andare a vedere la normativa, ma sfido, mi piacerebbe sapere quanti vanno a vedere la normativa, si accetta anche se si continua la navigazione su quel sito, quindi si dà per scontato che se uno continua la navigazione accetta l'uso che il sito fa dei cookies. Allora, c'è un grande dibattito fra gli addetti ai lavori sull'utilità o meno o sulle possibili modifiche a questa normativa che nasce da una direttiva europea. E questa è un'ulteriore conferma che a volte l'Unione Europea mette vincoli e non lascia libero il mercato di nascere e crescere. Ci sono molte persone, io sono d'accordo con quelle che dicono l'Europa si dovrebbe preoccupare più che di mettere paletti e normative del come creare un mercato per far sì che nascano nuovi servizi su internet, e solo se si liberalizza e se si semplifica si creano nuove cose su internet, non se si mettono paletti come questo. Allora, pare a molti e pare anche a me che stiamo assistendo all'ennesimo fallimento, cioè il risultato è che noi cittadini percepiamo ancora una volta la materia relativa alla privacy come una grande scocciatura, una inutile scocciatura, perché se si vuole usare quel servizio dobbiamo comunque cliccare su accetto, un po' come quando si va in banca, ci fanno firmare tantissime cose, non solo relative alla privacy, anche relative a tante altre normative in materia fiscale. Il risultato è che noi percepiamo tutto ciò come una scocciatura e anche come un modo per assolvere le banche, per deresponsabilizzare le banche, in quel caso poi vale in generale, rispetto a possibili comportamenti che magari dovrebbero essere invece sanzionati per responsabilizzare le banche. Invece io firmo accetto, accetto, accetto e poi sono affari miei. Vabbè, allora non so personalmente quale può essere la soluzione, però sicuramente qualche cosa andrebbe trovato, anche perché il vero rischio, e forse non è più un rischio, è che le normative privacy servano soprattutto alle istituzioni che se ne occupano, senza un reale beneficio per il cittadino, che anzi cittadino che percepisce come un beneficio quei servizi di profilazione di cui può usufruire gratis online. Perché probabilmente uno ha la domanda, ma secondo te sono utili le normative sulla privacy? Bisognerebbe andare a vedere il risultato e secondo te sono utili quel servizio, quell'altro servizio che ti viene dato gratis online in cambio di dati personali? No, però il tema è sicuramente molto complesso, molto serio, quindi è giusto dibattere su internet, in rete c'è un grosso dibattito, però io sono molto d'accordo con quelli che criticano tutta questa nuova normativa sui cookies, però dicevo il dibattito è molto ampio e molto serio. E sentite, a proposito non tanto dei cookies ma sull'utilizzo che molte aziende fanno dei dati personali, che cosa ha detto all'inizio della settimana Tim Cook, alcune affermazioni che arrivano casualmente proprio a pochi giorni dall'annuncio di un nuovo servizio con cui Google, ma Tim Cook, il capo della Apple, non ha fatto nessun riferimento a quel servizio, però casualmente arrivano a pochi giorni dall'annuncio di questo servizio che in cambio di uno spazio illimitato e gratuito per archiviare le fotografie si prende la licenza di andare addirittura a fare una scansione del viso delle persone per poi darci un servizio eccezionale. Però insomma il problema dell'utilizzo dei dati personali rimane ed è un problema molto serio. Tim Cook. When we design a new service, we try not to collect data. Dice Tim Cook, quando progettiamo un nuovo servizio cerchiamo di non raccogliere dati personali, non leggiamo ad esempio la tua post, i tuoi messaggi. Il nostro business, cioè il business di Apple, si basa sulla vendita dei terminali. Our business is not based on having information about you. You're not our product. Il nostro business non si basa sulla raccolta di informazioni degli utenti. Voi non siete il nostro prodotto, dice Cook. I nostri prodotti sono questi, cioè l'iPhone, l'iPad, l'orologio, bla bla bla. Penso che ognuno dovrebbe domandarsi come fanno le aziende a fare i soldi. I think everyone has to ask how do companies make their money? Follow the money. Seguite il denaro, come si dice in inglese, follow the money. E se queste aziende guadagnano principalmente raccogliendo montagne di dati personali, io penso che abbiate il diritto di essere preoccupati e dovreste sapere che cosa succede ai vostri dati. E le società dovrebbero essere molto trasparenti su questo. E alcuni potrebbero dire, beh, allora fa molto bene l'Europa a far sì che gli utenti siano consapevoli. Poi bisogna vedere se si diffonde questa consapevolezza. Non è comunque un caso che Google proprio all'inizio della settimana abbia messo a disposizione una serie di siti internet che di fatto rendono più trasparente l'uso dei dati personali che questa azienda fa. Tim Cook non ha fatto nessun riferimento particolare a Google, nessun riferimento particolare a Facebook. E devo dire, io personalmente non prendo posizione né a favore di un'azienda né a favore di un'altra. Ogni azienda ha un modello di business, molte di queste aziende hanno modelli di business straordinari, di grande successo, ma comunque il tema dell'utilizzo dei dati personali come moneta di scambio è un tema sul quale penso sia giusto attirare anche la vostra attenzione. Digital News. Alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. La prima riguarda Apple, che ha annunciato che l'Apple Watch sarà disponibile in 7 nuovi mercati a partire dal 26 giugno. Tra questi paesi c'è anche l'Italia, ad un prezzo ancora non ufficiale, ma che dovrebbe partire da 399 euro. Altre novità dal mondo Apple arriveranno la prossima settimana dall'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori. Dovrebbe essere lanciato, tra le altre cose, il nuovo servizio di streaming audio. Digital News. Altra data da tenere in mente se avete Windows è il 29 luglio, quando sarà disponibile la nuova versione del sistema operativo di Microsoft, la numero 10. Per chi possiede Windows 7 8.8.1, Windows 10 sarà un aggiornamento gratuito. Da oggi si può prenotare l'upgrade e in questo modo, senza fare nulla, il 29 luglio sul computer dovrebbe già funzionare Windows 10. Digital News. Per chi non è interessato agli smartphone, Microsoft rilancia il Nokia 105. Allora, costa una ventina di euro, ha una batteria che dura circa un mese, ma non è nemmeno 3G e di fatto serve solo per telefonare. Però sicuramente tra i vari prodotti acquisiti quando Microsoft ha acquisito Nokia, il 105, per chi non è interessato agli smartphone, è sicuramente un'ottima scelta. 20 euro, un mese di durata della batteria. Digital News. A proposito di Microsoft, ha confermato questa settimana di aver acquistato contattato la società tedesca che pubblica Wunderlist, un'app piuttosto famosa che permette di gestire le liste di cose da fare. Ci sono un sacco di applicazioni che permettono di fare la lista di cose da fare. Questa è una delle più note. Non so che cosa se ne farà Microsoft. Digital News. Allora, quando attacchiamo un accessorio esterno, come ad esempio un hard disk ad un PC, siamo sempre più impazienti perché vorremmo una connessione sempre più veloce. Allora, Intel ha annunciato la nuova versione dello standard Thunderbolt, che è uno standard che aumenta la velocità di una connessione. Allora, Thunderbolt funzionerà su USB-C, che quindi si candida a diventare la principale connessione per tutti i dispositivi. Abbiamo parlato di USB-C recentemente in occasione del lancio di un nuovo MacBook che ha come unica porta di connessione esterna la USB-C. Molto molto audace e sicuramente molto molto integralista. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ritorniamo tra poco, parleremo di quello che sta succedendo sulla rete internet in Italia, sulle applicazioni mobili, come utilizziamo i contenuti online. A tra poco. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Siamo oramai alla fine della primavera e in questa stagione sia Google che Apple incontrano gli sviluppatori per raccontare le novità. La prossima settimana inizierà la conferenza per gli sviluppatori Apple e la scorsa settimana invece c'è stata quella di Google. Nella puntata che andrà in onda domenica, nella nostra puntata della domenica tra le 13 e le 13.30, faremo un breve approfondimento dedicato alla cosiddetta app economy, cioè per capire, per raccontare alcune storie rappresentative di come le applicazioni, di come gli smartphone, lo sviluppo di questa economia basata sulle applicazioni ha permesso di realizzare alcune idee, di realizzare alcune società che sono in alcuni casi diventate anche molto grandi. Naturalmente sono alcune idee, potete anche suggerirci casi interessanti, li continueremo a raccontare anche nelle prossime puntate di 2024. Adesso parliamo di come utilizziamo i contenuti online in Italia, noi italiani, cercando di capire anche quanti sono, ad esempio, gli smartphone che ci permettono di utilizzare questi contenuti sempre più mobile. Questa settimana l'Osservatorio New Media e New Internet del Politecnico di Milano ha pubblicato la ricerca annuale. Andrea Lamperti è il responsabile della ricerca. Benvenuto a 2024. Grazie. Partiamo da alcuni dati che ci raccontano le dinamiche della rete internet, ma non solo della rete internet, anche degli strumenti che noi utilizziamo per accedere a internet per poi fruire dei contenuti. E vorrei proprio partire dal numero di smartphone, che è un numero molto interessante, e dal numero di tablet, che un po' mi stupisce, un po' mi delude anche. Smartphone. Sì, in Italia ormai sono circa 40 milioni di smartphone diffusi tra la popolazione italiana. Questi smartphone vengono utilizzati costantemente durante tutta la giornata, sia per accedere, appunto, come dicevi giustamente tu, alle news in forma diversa, sia su applicazione che sui siti web, ma soprattutto vengono utilizzati anche per n altri motivi, dall'intrattenimento, quindi ad esempio l'utilizzo di social network o di applicazioni di giochi, ma anche poi per ricercare direttamente in rete qualsiasi informazione e novità. 40 milioni di smartphone, significa, sì, che sono 40 milioni di persone che hanno lo smartphone o non è mica così? No, addirittura gli smartphone, essendo dei dispositivi molto personali, si arriva ad avere anche una sovrapposizione di più dispositivi sulla stessa persona. La media addirittura porta ad avere 1,1 dispositivo per ogni persona. Quindi sono meno di 40 milioni di persone. Esattamente. Siamo intorno ai 35 milioni di personaggi unici che posseggono uno smartphone. sai, con lo smartphone, che è già un mercato molto interessante, però immagino che siamo ancora in una fase di espansione. Siamo ancora in una fase di espansione, ogni anno vengono venduti circa 8 milioni di pezzi, quindi si stima che in pochi anni riusciremo a coprire un po' tutta la popolazione. Beh, anche perché diciamo che oggi non comprare uno smartphone è difficile. È molto difficile. Ci deve impegnare uno. È molto difficile. È anche vero che, diciamo così, i telefonini di generazioni passate ormai sono venduti anche a bassissimo prezzo, quindi c'è ancora una fascia di popolazione che utilizza questi dispositivi che non si possono connettere a internet. È anche vero che la sostituzione di questi dispositivi è molto veloce. Certo, tablet. Allora, io sono un grande sostenitore dei tablet, mi piace molto il tablet e trovo che in molte occasioni, anche quando si viaggia, sia molto molto comodo. Però, intanto quanti sono? Allora, in Italia sono circa 10 milioni di pezzi diffusi. Qui il concetto è un po' diverso dallo smartphone. Il tablet è un dispositivo che si condivide soprattutto in famiglia, e quindi le persone che utilizzano i tablet sono più dei 10 milioni di pezzi diffusi. Questo perché appunto in famiglia spesso si ha un tablet che viene utilizzato sia dai genitori sia dai figli, con modalità molto diverse. E in questo caso il mercato invece si è fermato? Questo è un mercato che... Tutte le analisi, tutti gli analisti fino a meno di un anno fa sostenevano in crescita anno su anno con cifre a doppia cifra di percentuale di crescita. Mentre si sono sbagliati. Si sono tutti sbagliati. Che bello fare l'analista, io vorrei fare l'analista perché non succede, ti sbagli e non succede nulla. Le previsioni sono appunto previsioni, no? Esatto. Soprattutto a lungo periodo. Quindi in questo caso non stiamo assistendo invece ad un'espansione come ancora siamo negli smartphone. No, l'espansione in realtà continua, non avviene così velocemente come si sosteneva. È rallentato il ritmo. Esattamente, è rallentato il ritmo. Le vendite sono rimaste in numero assoluto le stesse degli anni precedenti. Quindi la velocità di crescita non è aumentata, ma rimane costante. Senti, voi avete fatto alcune considerazioni sull'utilizzo che noi facciamo di internet, dei servizi internet, dei contenuti su internet, sia da mobile, ed è una cosa che si dice spesso, tantissimi produttori di contenuti, di terminali insistono molto sul mobile, e siete andati a vedere anche come viene utilizzato il computer. Ecco, qui come stanno le cose? Quanto cresce l'uno, quanto cresce l'altro, se diminuisce qualcosa, cosa cambia? Allora, dobbiamo dire che la popolazione ormai è su mobile. Come dicevo prima, gli smartphone vengono utilizzati costantemente per accedere a informazioni e ad altri servizi. Quando si parla di mobile, attenzione che parliamo in realtà di applicazioni. Circa l'80% del tempo speso viene speso su applicazioni e il restante tempo invece a navigare sui siti anche ottimizzati per mobile. E quando parliamo di applicazioni, in realtà parliamo di un numero molto ristretto di applicazioni. In una ricerca che abbiamo fatto con Doxa abbiamo visto che in un mese solo 4 o 5 applicazioni vengono utilizzate tutti i giorni. Addirittura così poche. Esattamente. Pazzesco. E se ci pensiamo possiamo anche arrivare ai nomi di queste 4 o 5 applicazioni. Una è sostanzialmente un social network, una è un meccanismo di condivisione di messaggi istantanea e le altre due possono essere appunto o applicazioni di notizie, di news e diciamo così anche di servizi tipo meteorologici. Queste vengono utilizzate costantemente. Pazzesco. Questo è incredibile, che siano così poche le applicazioni, quindi come molti utenti amplino il proprio scenario di fruizione di contenuti. Sì, è veramente triste da un certo punto di vista, però vabbè, così. In realtà il numero di applicazioni scaricate continua ad aumentare, però sempre di più si sta affermando il concetto che un'applicazione deve svolgere correttamente una sola funzione, e quindi l'applicazione che si va a chiamare, che si va poi ad utilizzare, deve soddisfare quel tipo di bisogno e viene utilizzata solo in quel momento. Sì. Poi certo, queste 400 sono quelle che vengono utilizzate tutti i giorni, poi ci sono applicazioni che vengono utilizzate una volta alla settimana, esattamente. Anche all'anno per fare una determinata cosa, certo. Esatto. Che ne so, l'applicazione per vedere quanto vale lo yen giapponese, magari la usi solo perché sei andato in Giappone o perché hai qualcosa, certo, ovviamente. Da PC invece le cose stanno cambiando? Allora, l'utilizzo del PC rimane comunque ancora prioritario nella raccolta, anche se vuoi, di finanziamenti pubblicitari, perché comunque lì c'è ancora lo spazio per inserire determinati formati che invece su mobile risultano invasivi. E sulla raccolta pubblicitaria si sta molto interrogando il settore su come portare una pubblicità. Come fare soldi su mobile. Esattamente. Però a livello di fruizione delle persone? Allora, il mobile viene ancora utilizzato per accedere velocemente a un'informazione, a una necessità. Poi spesso si approfondisce quella news o quella informazione o quella ricerca su PC in un secondo momento, magari a casa la sera o per chi riesce nelle pause in ufficio. Il tempo dedicato in generale è più su PC o su mobile? Allora, il tempo dedicato su PC sta calando, ma rimane in tempo speso maggioritario rispetto a quello del mobile. In che percentuale, grosso modo? Allora, giornalmente abbiamo circa mediamente 120 minuti su PC e invece quasi un'ora e un quarto, quindi 75 minuti su dispositivi mobile. Quindi quasi pari. Si sta assottigliando. Il tempo speso su PC è abbastanza stabile negli ultimi anni, mentre su mobile sta crescendo ulteriormente. Invece, tornando al tablet che accennavi tu prima, anche lì il tempo in realtà è piuttosto stazionario negli ultimi anni. Il tempo speso su internet giornalmente non sta crescendo così come invece cresce lo smartphone. E senti, a livello pubblicitario, perché questo naturalmente è interessante per tutti quelli che producono contenuti, ma di qualsiasi genere, anche di grande nicchia, mi sembra di capire che non c'è la stessa proporzione, cioè metà e metà è il tempo speso tra mobile e PC, nel mobile ci mettiamo anche il tablet, immagino, però non, la percentuale non è identica sulla pubblicità. No, se guardiamo i ricavi pubblicitari abbiamo ancora una predominanza del PC, circa l'80%, poco più dell'80% dei ricavi avviene ancora da questo dispositivo. La restante parte, larga parte, circa il 15% da smartphone e poi la rimanente su tablet. Questo appunto perché c'è un problema di formati sui dispositivi mobile che devono essere sostenibili in termini di rilevanza ma non di disturbo per l'utente finale, e invece per quanto riguarda PC ovviamente c'è anche una comodità di una possibilità di creare grafiche anche più interessanti, accattivanti per l'utente finale, e che quindi riesce poi a interagire e quindi anche a essere pagate. Da questo è uno dei grandi problemi dell'industria, sì. Cioè trovare come il modo per monetizzare tutto questo tempo speso sul mobile che cresce. Uno dei formati più interessanti negli ultimi anni è ovviamente il formato video pubblicitario, che in internet sta trovando molto spazio. Qui, anche qui, si sta interrogando come portarlo su mobile con n problemi, sia di dimensioni sia di banda, che ovviamente su mobile è sempre limitata. Sì. Senti, in generale, tutte queste dinamiche sono molto italiane o grosso modo facciamo le stesse cose che fanno i francesi, i tedeschi, gli americani, gli inglesi? Allora, la dinamica italiana è fortemente legata a una fruizione di video, quindi a differenza di altri paesi sul mercato media complessivo la TV ha un peso molto maggiore rispetto agli altri paesi. Questa cosa in parte la vediamo anche sui canali internet, quindi un formato video che si è diffuso e anche in termini di ricavi pubblicitari molto più velocemente rispetto ad altri paesi. Se guardiamo invece complessivamente ad esempio gli Stati Uniti, il peso di internet sempre sui ricavi pubblicitari è più o meno simile, dove invece la restante parte, quindi se guardo a radio, stampa e TV, noi abbiamo una percentuale più alta di TV, mentre negli Stati Uniti si è più distribuito. Se guardiamo al peso del mercato pubblicitario, voi dite che alla fine di quest'anno, fate una previsione, poi chissà se poi ci prendete. Se sbagliamo come le previsioni di tablet. Senti, però diciamo che non si discosta molto dal dato del 2014, dite alla fine dell'anno il peso della pubblicità sul totale del mercato di internet sarà del 30%. Esatto, sì, non si discosta molto da quella di quest'anno, però raggiunge, diciamo così, una cifra un po' significativa. No? Significa per quest'anno intendi 2014, consuntivo 2014. A fine 2015 potrebbe veramente arrivare a un terzo del mercato, quindi a un investimento su tre passa dal canale digitale, dal canale internet. Questa è diciamo così, una soglia che viene superata, che può anche far capire come non si può non pensare a internet quando si parla di contenuti editoriali, certo. E quindi poi di un modello di business che li supporta. Certo, naturalmente poi attendere questa percentuale crescerà quasi a raggiungere il 100%. Se noi pensiamo che non so in quanti anni, però tutto il mondo televisivo passerà via internet, tutto il mondo anche della radio, ma chissà fra quanti anni passerà via internet, tutto passerà, arriverà al 100%, sì. O esagerato, non lo so. È forse in questo momento esagerato, sicuramente attendere il peso di internet continuerà a crescere. In questo momento vediamo che comunque il concetto di smart TV, quindi di televisione connessa, è ancora molto poco consolidato nelle famiglie italiane, seppur queste smart TV iniziano a essere presenti nelle case, però non vengono utilizzate in modalità connessa. Ah. L'altra fonte, che è comunque il mondo della stampa e della radio, hanno ancora dei propri zoccoli duri, bisogna andare a vedere nel tempo come verranno erosi. Anzi, speriamo che durino molto, no? Assolutamente. A proposito di notizie, citato stampa e radio, che sono due grandi erogatori di informazioni, voi avete fatto un'analisi sul mondo delle news, perché? Perché comunque noi, studiando il mercato internet, in particolare legato al mondo dei media e ai ricavi pubblicitari, i ricavi pubblicitari sono spesso collegati a un contenuto editoriale, e quindi andiamo a vedere quanto questi contenuti editoriali sono interessanti per gli utenti, per la popolazione internet, per poi vedere come cambierà. Corretto. Il mercato pubblicitario. Ecco, da questo punto di vista cosa cambia? Allora, non cambia, e questo Perfetto. È un bene, il desiderio di cercare news e informazioni da parte degli utenti. Cambiano in parte i canali, in particolare nella popolazione più giovanile vediamo che il canale online è quello ormai prevalente per più della metà della popolazione giovanile italiana. Quindi vuol dire che durante la giornata cercano informazioni, che siano informazioni brevi, veloci per capire quello che succede intorno, oppure approfondimenti o notizie, diciamo così, più di costume, sempre dai canali digitali. Questo può venire, come dicevamo prima, da applicazioni specifiche, oppure cercare direttamente su siti web, anche tramite motori di ricerca, le informazioni che invece non sono, diciamo così, standardizzate all'interno di un'applicazione, oppure poi la sera su PC per notizie invece più di costume, di colore, che, diciamo così, sono anche, fungono anche un po' di intrattenimento del tempo dell'utente. Sì. Se guardiamo ai giovani, è il loro canale principale internet? È il loro canale prevalente, esattamente. Quando pensano ad una notizia o quando vogliono ricercare una news che magari hanno intercettato la loro rete di amici, poi accedono al canale digitale per approfondirla. E quindi spesso è gratis anche. Spesso è gratis, questo è uno dei, questo è uno dei problemi, dei però... problemi, ma anche delle grandi opportunità. All'interno della ricerca siamo andati a vedere a livello internazionale come alcune iniziative startup internazionali, appunto, stanno cercando di portare un modello di revenue, comunque un fatturato anche nel mondo editoriale, che invece sta andando sempre di più verso una dinamica gratuita. Ci sono degli esempi interessanti che stanno iniziando anche a fatturare, ad esempio alcuni non vendono sempre sul canale internet le copie digitali complete dei quotidiani, dei periodici che possiamo anche vedere nell'edicola, ma vendono addirittura il singolo articolo, quindi con pochi centesimi comunque uno accede a un articolo di qualità che potenzialmente è andato in edicola la mattina stessa, ma comunque fruisce di un contenuto premium con anche il sì. fatturato da parte dell'editore. Sì, questo può essere interessante. Rimane il problema di come pago, perché chiaramente se devo pagare 5 centesimi per un articolo, non so se uno ha tempo e voglia di mettere i numeri della carta di credito. Allora, questo è una barriera molto italiana. C'è ancora in Italia una barriera nel utilizzare la carta di credito e in generale gli strumenti diciamo così, di pagamento digitale nei confronti di piccole spese. Questa è una barriera che un po' stiamo combattendo a livello diciamo così, universitario di ricerca, nel presentare comunque questi dati internazionali che continuano invece a crescere. Sì, beh, al di là della percezione e quindi della facilità con cui uno usa la carta di credito, c'è anche però un problema di facilità, perché effettivamente uno dice vabbè, ma devo perdere un po' di tempo, non tanto, per 10 centesimi, per pochi centesimi. Per me non è un problema, perché io compro i biglietti della metropolitana a Milano, c'è una fantastica applicazione dell'ATM, che è l'azienda dei trasporti, e io ormai compro i biglietti sull'app e entro in metropolitana con l'app, col QR code, e so a memoria i numeri della carta di credito, ci metto un attimo. Però è un problema o no? Allora, innanzitutto ci sono degli strumenti che ti permettono di, una volta introdotti all'inizio i tuoi dati della carta di credito, poi ovviamente di tenerteli salvati e protetti e utilizzarli in maniera veloce. Sì. L'altra considerazione è che comunque se io voglio accedere a un contenuto di qualità e che soddisfi meglio la mia esigenza di informazione, sono anche in realtà disposto a fare questo sforzo di pagare e di introdurre i miei dati. Mm-hmm. Purtroppo forse è un problema più culturale del canale internet in Italia, che è sempre stato gratuito fin dall'inizio, e quindi anche adesso il canale internet viene associato a una fruizione gratuita. Sì, ci sono degli altri esempi interessanti di come si riesce con un modello di business adeguato a monetizzare l'informazione online? Ci sono molti portali, soprattutto americani, che uniscono ai propri contenuti editoriali una sorta di suite di contenuti aggiuntivi, che vanno dalla vendita di prodotti fisici, quindi e-commerce, vendita di abbigliamento, accessori, ma anche altri oggetti correlati a ciò che io sto descrivendo o non voglio dire promuovendo, però insomma di ciò di cui sto parlando nell'articolo. Questo succede sia su portali, diciamo così, più di intrattenimento, di lifestyle, di moda, di uso e costume, quindi molto associati poi alla vendita di abbigliamenti di moda o accessori, ma succede anche in contenuti, diciamo così, più per il tempo libero, hobby domestici, e quindi vendita di lezioni di giardinaggio online, vendita di lezioni anche one to one, quindi colloqui con un esperto sempre attraverso il canale digitale, oppure accesso a contest a pagamento, a concorsi a premio in cui questi provetti giardinieri che in casa coltivano dei vasi possono competere a pagamento contro gli altri della rete. Molto interessante e anche molto preoccupante da un certo punto di vista, perché a chi pensa all'informazione come unico canale e come unico business, chiaramente si scontra con questi modelli di business che dicono invece no, l'informazione oramai è un contenuto su cui ci si può guadagnare poco o nulla, e ora bisogna inventarsi qualcos'altro per sostenere l'informazione, o viceversa, l'informazione sostiene questi altri business, però non è il canale principale. Insomma, è un mondo complicato e non saremo noi sicuramente a risolvere questo problema che da anni ci portiamo dietro e che pochi hanno ancora interpretato molto bene. Grazie ad Andrea Lamperti per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, torniamo tra pochissimo. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Questa settimana sono usciti nuovi dati sulla diffusione degli smartphone e in modo particolare dei sistemi operativi. È stata Kantar World Panel a pubblicare i dati relativi al primo trimestre dell'anno. Allora, in generale il dato che spicca è l'aumento di quota di mercato negli Stati Uniti di Android, e invece in Europa il fenomeno è inverso: Android cala di un po' e aumenta iOS, quindi Apple. Se andiamo a vedere i mercati, allora guardiamo subito l'Italia. Allora, Android scende dal 72 al 69, perde il 3%, iOS guadagna il 2,4% ed è al quasi 16% del mercato. L'Italia è un paese dove Windows Phone è molto forte, ha il 13,3% del mercato. Tra i paesi che vengono tracciati da Kantar è il paese principale, quindi se consideriamo l'Europa dove c'è Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, l'Italia è sicuramente il paese dove Windows Phone ha la quota di mercato più elevata, e tra l'altro cresce nel primo trimestre dell'anno rispetto alla fine del 2014. In Giappone è praticamente insignificante, negli Stati Uniti ha un 3,8%, insomma il 13% è una quota sicuramente molto importante. Allora, se torniamo a guardare Android, la quota di Android negli Stati Uniti è del 62,4%, sale del 3% circa, iOS scivola del 2% e è al 33%. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi dove iOS, dove i prodotti di Apple hanno una penetrazione più marcata, un altro paese dove va molto forte è l'Australia. Oppure pensate, in Giappone la quota di mercato di Apple è scesa nell'ultimo periodo, ma è del 45% rispetto ad Android, che è al 51%. In molti altri paesi la quota di mercato, se guardiamo ad esempio all'Europa, i principali paesi dell'Europa, la quota di mercato di Android è del 70,5%, iOS del 19,3%, Windows del 9,2%. Insomma, è sempre molto interessante vedere come cambiano le dinamiche dei sistemi operativi. Naturalmente assieme ai sistemi operativi si muove una grandissima economia che è stata definita App Economy. E visto che siamo a cavallo tra due appuntamenti importanti alla fine della primavera, prima dell'inizio dell'estate, tradizionalmente in California vengono chiamati all'appello gli sviluppatori, quelli che creano poi le applicazioni e quindi che danno forma a questa App Economy. La scorsa settimana c'è stata la conferenza per gli sviluppatori Google, e quindi di fatto Android. La prossima settimana ci sarà la conferenza, la tradizionale conferenza per gli sviluppatori di Apple, quindi di iOS. Poi questi sono anche appuntamenti in cui vengono fornite alcune informazioni, vengono date alcune notizie che sono di carattere generale sulle novità che riguardano i principali ecosistemi di applicazioni nel mondo. Allora, a proposito di App Economy, vogliamo con alcuni esempi puramente rappresentativi di un mercato sconfinato parlare di come le applicazioni, di come l'arrivo delle applicazioni ha reso possibile la realizzazione di idee, di progetti, di aziende vere e proprie. E molte persone o hanno creato qualcosa dal nulla, oppure hanno cambiato mestiere e sono passati da un lavoro ad un altro proprio grazie alle applicazioni. E stiamo parlando di un mercato che non ha nemmeno 10 anni. Iniziamo dalla storia e dall'esperienza di The Pop, scritto con la D, non The all'inglese con la T. The Pop, è con noi il fondatore di The Pop, Simon Beckerman. Benvenuto a 2024, Simon. Grazie a voi, ciao a tutti. Che cos'è The Pop? È un servizio, un progetto che ormai è diventato adulto, si è espanso, quindi non siete più una semplice startup. Che cosa fate? Allora, The Pop è un'app per iPhone e per Android, e la sua mansione principale è quella di essere un mercatino virtuale, chiamiamolo così, un mercatino virtuale social. Quindi per metterla giù in maniera semplice, è il matrimonio tra eBay e Instagram. Quindi immaginati una Instagram col bottone compra, dove puoi inserire un oggetto in vendita scattando una foto velocissimamente, però dove puoi anche agganciare PayPal e puoi anche chattare privatamente per negoziare con gli altri utenti. E in più, come Instagram ha tutta la parte social, quindi io posso seguire gli altri utenti, possono essere amici o venditori preferiti, e posso vedere subito quando mettono in vendita qualcosa, oppure anche quando comprano o quando gli piace. Quindi insomma è un social network mercatino, diciamo così. Quante cose vengono vendute e comprate su The Pop? Ma attualmente siamo sui 10.000 oggetti venduti ogni giorno. Sono messi in vendita, siamo sui 50-60.000 al giorno, di cui 10.000 si concludono in transazioni con successo. Con successo, in tutto il mondo? In tutto il mondo. Abbiamo lanciato, in realtà il lancio ufficiale l'abbiamo fatto solo in Italia, in Inghilterra, e lo stiamo lanciando in questi giorni, in queste settimane, negli Stati Uniti. Però l'app è disponibile in tutti i paesi del mondo, e ci sono già anche tanti altri paesi che stanno iniziando ad adottarla, come per esempio va bene in Olanda, sta andando in Brasile, in Scandinavia e altri paesi. Verrebbe da dire che voi con The Pop avete individuato un trend di successo, e lo avete dimostrato, tanto che oggi, visto che tu l'hai citata, Instagram ha installato il tasto compra, cioè comincia a fare un po' quello che fate voi. Sì, diciamo che Instagram almeno per ora, offre questa possibilità ai loro azionisti e a brand particolari, speciali. Noi abbiamo tutta una serie di altre funzionalità che rende Depop non proprio un e-commerce, ma, come ho detto prima, un mercatino. Quindi noi abbiamo la chat, abbiamo la possibilità per un privato di accettare pagamenti con carte di credito, abbiamo anche la ricerca molto più specifica e quindi insomma il focus è un po' diverso. Il look and feel è lo stesso, perché secondo me quello è un look and feel vincente, è molto simile anche al look and feel di altre app come, non so, Pinterest o Twitter, no? Però insomma il compra e vendi è un filone che sul mobile sta partendo alla grande, sì. Una cosa del genere, se non ci fosse lo smartphone, non potrebbe esistere, secondo te? Ma in un certo senso esiste, si chiama eBay, però uno dei motivi per cui abbiamo inventato Depop, se così si può dire, è perché il web e il mobile sono due mondi completamente diversi, quindi quando si disegna un prodotto per il mobile bisogna adattarlo non solo alla tipologia di uso che un utente ne fa, quindi deve essere più veloce da usare, deve occuparmi meno tempo, ma anche usare funzionalità che l'hardware specifico offre, come la geolocalizzazione, le notifiche push, la fotocamera appunto per mettere in vendita. Quindi la motivazione che ci ha spinto a fare Depop è proprio il fatto che esistevano le app. E questo è il suo punto forte, ecco. Sì, un modo tutto sommato anche abbastanza semplice per creare un'idea, per mettere in pratica un progetto. Ma sì, diciamo di sì. Tu parli proprio di come realizzare un'app, sì, o esatto. Un Depop in specifico. Ma realizzare un'app è come realizzare qualsiasi altro prodotto. Ci sono tutte le componenti varie, dal design al marketing alla produzione stessa. Perché quando i programmatori lavorano sul sviluppo di un'app, più o meno si può anche dire che è come produrre un oggetto. Ci sono le modalità specifiche per produrre anche diversi tipi di app, c'è il know-how specifico, non so, per fare i social network piuttosto che per fare altri tipi di app. Quindi fare un'app, anche se sembra facile perché è come dire, non è proprio tangibile, è come fare una qualsiasi altra azienda, ecco. Quante persone lavorano oggi per Depop? Adesso siamo tra 45 e 50, sparsi principalmente in tre paesi, di cui il team principale a Londra, poi abbiamo un piccolo team a Milano e un piccolo team anche a New York. Quindi è diventata un'azienda e non è più una startup? Ah, questa è una bella domanda, perché dipende dalla vision, insomma, no? Uno può considerare la startup fino a quando non diventa in break even, non raggiunge il break even, oppure può considerare la startup fino a che non ha venduto a Facebook, dipende un po' dal sentito. E questa potrebbe essere una prospettiva certo interessante, ci hai svelato un po' qualcosa che alla quale state pensando, naturalmente. Quindi vuol dire che non siete ancora in break even? No, perché gli investimenti che noi stiamo facendo per espanderci in tutti i paesi sono notevoli, quindi abbiamo, come si fa in questo settore, i venture capital che hanno investito in noi e continuano a investire affinché noi possiamo, sì, lanciare in tutti i paesi. Certo. Fatturato ce l'abbiamo, va abbastanza bene, però investiamo, sì, molto di più per il lancio. Ecco. Certo, quando un'idea è interessante e gli investitori ci credono, giustamente si deve continuare ad insistere per qualche anno per espandere, sì, il business. Sì. Senti, visto che stiamo parlando anche della app economy, quindi questa, sì, economia nata attorno alle applicazioni, tu sei anche sentimentalmente più iOS o Android? E quale vabbè, potremmo citare anche Windows Phone. Che cosa, come ti atteggi di fronte a questi mondi? Ma sentimentalmente io mi ritengo un po' più Apple. Sono nato e cresciuto con la tecnologia Apple, i miei genitori hanno sempre avuto un computer Apple e ho usato pochissimo i PC. Uno dei motivi principali che mi ha spinto a fare l'app è proprio perché c'era l'iPhone. l'iPhone ha creato questa appunto app economy che ci ha permesso di poter fare la nostra app. Quindi, nonostante non mi dispiaccia l'Android, anzi ci sono anche un paio di diciamo telefoni che non sono male, in realtà io sono un pochino più verso Apple. Senti, il motivo per cui vi siete spostati in Gran Bretagna qual è il principale? Il motivo principale deriva un po' dall'ecosistema, cioè per fare un'app ci vogliono una serie di fattori, ci vuole un investitore o più investitori, nel nostro caso dei venture capital, ma ci vuole anche un know-how nel costruire questo tipo di prodotto. E in Italia, nonostante abbiamo delle potenzialità enormi, perché noi abbiamo nel nostro paese la cultura del design ma anche dell'ingegneria, siamo un pochino indietro per quanto riguarda il know-how nella costruzione di applicazioni mobile, ecco. Quindi manca un po' il know-how per costruire nella programmazione il back-end, così come viene chiamato, ma anche nel disegno della esperienza utente, come viene chiamata la user experience. Quindi uno dei motivi principali per cui siamo andati in Inghilterra è quello, perché in Europa insieme a Berlino sono le due città chiave per questo settore. Poi siamo andati anche a Londra perché, avendo un'ambizione di lanciare negli Stati Uniti presto, volevamo un'app che fosse già subito inglese dentro. Quindi volevamo creare una grande community in Inghilterra, così poi da poter lanciare anche negli Stati Uniti e parlare già la loro lingua. Quindi questi sono i motivi principali, ecco. Certo, quel mercato è un trampolino naturale per gli Stati Uniti, ovviamente. Esatto, esatto, sì. Simone, ti ringraziamo e naturalmente in bocca al lupo. Crepi lupo, grazie a voi. A presto, grazie. A presto. Altra idea, altro progetto, altra azienda, altra applicazione. Sara Mervi, fondatrice di Pink Up. Sara, benvenuta a 2024. Grazie a te. Che cos'è o che cosa sono le app di Pink Up? Ma partiamo dalla prima tua idea. Allora, Pink Up è nato come esperienza personale, quasi un regalo fatto a me stessa prima che alle nostre utenti. Lavoravo in un gruppo bancario, una società di gestione del risparmio, sono rimasta incinta del mio secondo figlio e da utente iPhone, cercando sullo store un'app che potesse consentirmi di seguire e monitorare il procedere della mia gravidanza, mi resi conto che non c'erano delle app che tenessero pienamente conto del contesto italiano. C'erano soprattutto delle app che erano tradotte in lingua italiana ma non tenevano conto della normativa, della prassi italiana, degli esami da fare, dello scadenziario medico. Da lì a poco raccogliere tutte le informazioni e sviluppare la prima app sulla la gravidanza completamente italiana e localizzata in Italia, il passo è stato breve. Oggi quell'app, innanzitutto ti chiedo che cosa fa sostanzialmente quell'app, cioè che tipo di servizi e di informazioni dà alle donne incinta? Allora, la donna quando scarica l'app, la prima cosa che deve fare è inserire o direttamente la propria data presunta parto o la data ultima di mestrazione, noi calcoliamo la data presunta parto. Da quel momento, ogni giorno che entrerà l'app, avrà l'informazione esatta del periodo di gestazione, quindi del momento di gravidanza che sta vivendo, era, non so, per esempio la settima settimana più 3 giorni, e leggerà all'interno dell'app una serie di informazioni che riguardano quel momento tipico che sta vivendo. Quindi ha possibilità di ricevere informazioni precise di quella settimana di gravidanza, le vengono anticipate gli esami che dovrà fare, quindi se la settima settimana fra un po' dovrai fare questi esami, quindi gli viene data un'informazione anticipativa rispetto al momento del bisogno, e poi può inserire i suoi dati, può inserire i suoi appuntamenti, le sue variazioni di peso, la pressione, che è un elemento molto importante da monitorare durante la gravidanza. Sull'Apple Store, tra l'altro, queste informazioni mediche adesso sono con l'HealthKit, abbiamo sfruttato l'HealthKit e quindi possono essere salvate anche nel telefonino, nel sistema dell'HealthKit dell'iPhone. Sì, quindi diventano parte dei dati sanitari. Sì, sanitari dell'utente. Sì, sì. Senti, oggi il vostro è un sistema di app, giusto? Sì, è un sistema di app, però definire solo diciamo, Pink Up un agglomerato di app è abbastanza riduttivo, nel senso che nelle nostre app l'utente quando scarica un'app si registra e una volta che si registra entra nel mondo Pink App. Da quel momento ogni app che viene scaricata o viene riutilizzata noi riconosciamo l'utente e quindi storiamo tutti i suoi dati, li salviamo, quindi uno può utilizzare l'app per la gravidanza una prima volta, può riutilizzare una seconda e riconsultare i dati della prima gravidanza, quindi entra nel mondo Pink App e anche le informazioni vengono passate da app a app. Nel momento in cui l'utente, terminata la gravidanza, scaricherà l'app Pink App neonato, si porta dietro tutta la sua storia, quindi la sua storia di gravidanza vissuta, i dati inseriti, tutte le informazioni. Senti, nel mondo ci sono cose analoghe che potrebbero farvi concorrenza o che magari già vi fanno concorrenza sul mercato italiano, che ha le proprie particolarità, come ci dicevi prima? Sì, allora sicuramente i nostri competitor sono molto allargati, nel senso che competitor che si rivolgono al nostro target di utenza ce ne sono tantissimi. Anche un blog che fa informazione sulla gravidanza può essere considerato nostro competitor, perché magari è il calcolatore che ti permette di calcolare la data presunta parto. Diciamo che però l'informazione storata è una peculiarità nostra. Ci sono delle app, ci sono tantissime altre app che fanno singolarmente, offrono gli stessi servizi, app sulla gravidanza, app sul neonato, o app sul ciclo, sulla fertilità della donna. Trovare dei competitor che prendono tutti questi momenti di vita della donna, ce ne sono pochissimi, in Italia ce n'è solo un altro, e che lo fa come noi, nel senso creando la storia, registrando tutti i dati, archiviandoli e utilizzando questo poi anche per dare dei servizi aggiuntivi, no, quindi questa è la nostra peculiarità. Noi registrando la donna e sapendo in ogni momento in che momento di gravidanza è, nel momento in cui entra nel mondo Pink App, possiamo dire appunto sei nella tot settimana di gravidanza e fornire anche informazioni, gli articoli specifici di quel momento. Quindi non è come rivolgersi a un blog dove uno cerca l'informazione amniocentesi perché gli interessa sapere l'amniocentesi. Quando entra nel mondo Pink App gli forniamo noi l'informazione perché in quel momento sappiamo che probabilmente potrebbe fare quella visita e quindi potrebbe essere interessata ad informarsi. Come fate i soldi? Allora, noi lo facciamo attraverso delle partnership con delle aziende sulle app. Le app sono sullo store, sono app gratuite, hanno dei servizi in app a pagamento, ma il grosso della redditività nostra arriva dalle sponsorship con le aziende. Il nostro obiettivo è quello di avere poche aziende presenti sull'app, ma che siano perfettamente in linea con i servizi che noi offriamo alle nostre utenti. Essendo proprio app di nicchia che trattano temi specifici sulla gravidanza, sulla neonatalità, sulla fertilità, il nostro obiettivo è di avere proprio delle aziende che offrono dei servizi e vogliono rivolgersi a quel target di utenza. Quindi anche la percezione dell'utente non è una percezione di fastidio, perché comunque l'informazione, seppur sponsorizzata e aziendale, è un'informazione corrente ai media di quel momento che la donna sta vivendo. Sì, sì, sì, può anche essere utile. Come... può essere sicuramente utile. Sì, sì, sì, certo, la pubblicità è anche una forma di informazione da un certo punto di vista, perché mi mette... Sì, ad esempio una sponsorizzazione che abbiamo noi è sull'app Gravidanza. La donna durante il periodo di gravidanza assume l'acido folico, un integratore, viene spesso considerato dal medico l'assunzione di acido folico, un integratore alimentare. Questa presenza quindi l'abbiamo fatto a forma di funzione, cioè una sorta di reminder dell'assunzione dell'acido folico. In questo modo è anche un servizio utile, perché la donna si rende conto ogni giorno che lo deve prendere e gli arriva l'alert. Senti, a te è venuta questa idea mentre appunto lavoravi in un gruppo bancario, e tu però non sei una sviluppatrice. Non sono una sviluppatrice perché sono laureata in economia, però la mia prima attività... Questo non vuol dire, uno potrebbe diventare sviluppatore. Sì, sì, quello è vero. Però diciamo che il mio focus principale in termini di formazione era economico e finanziario, perché comunque sono una laurea finanziaria, quindi era rivolta al mondo delle banche e della finanza. Però sono stata subito assunta in ufficio RISC insieme vicino al risk manager, che stava sviluppando internamente un sistema per il monitoraggio del rischio di portafogli in ambiente MATLAB, e quindi con lui un po' sono stata coinvolta nel mondo informatico. Diciamo, sicuramente non ho le competenze per sviluppare io in prima persona, soprattutto sulle piattaforme iOS e Android dove ci rivolgiamo noi, però sono in grado di seguire tecnicamente i problemi che mi presentano. Poi ovviamente all'interno del nostro team ci sono delle persone che sono dedicate a questo. Sì. Gli sviluppatori si trovano facilmente o è mica tanto facile trovare quelli bravi? Allora, trovare quelli bravi, il problema è sempre appunto la qualità. Diciamo che nella mia esperienza è vero che mi sono anche imbarcata in delle esperienze negative, cioè non sempre, però si trovano. Ovviamente è sempre il solito discorso domanda-offerta, più sono bravi più sono ricercati, quindi anche loro, la loro quotazione è diversa ed è giusto che sia così. Sì, certo. Senti, la tua percezione, o comunque se tu pensi e guardi al mondo iOS, Android e, anche se ancora non ci siete, Windows Phone, che cosa ti senti di dire di queste tre piattaforme? Allora, ovviamente stiamo valutando anche l'entrata anche noi su Windows, e la decisione a livello aziendale di entrare sul mercato o rispetto a un altro dipende anche dai volumi e dalle aspettative che anche in termini di redditività. Noi abbiamo iniziato su iOS perché in termini di applicazioni, di numero applicazioni, era per prima che ha fatto da pioniere nel, come numeri, come volumi a livello interessante. Sicuramente tra le varie piattaforme una particolare attenzione noi rivolgiamo al mondo iOS, perché è anticipatore su determinate tecnologie, non so, ad esempio l'integrazione con l'HealthKit l'abbiamo fatto subito con iOS, e adesso però è stato molto interessante il fatto che hanno reso disponibile il Research Kit, la possibilità quindi di utilizzare tutti questi dati che noi archiviamo dalle nostre utenti con l'università e poterli valutare anche in termini statistici e capire se c'è sono dei modelli o degli algoritmi che ne possono nascere per utilità anche per i nostri utenti. Infatti stiamo cercando in questo step un'università con cui collaborare per valutare tutta questa mole di dati che abbiamo inseriti dalle nostre utenti. Sì. Android? Android anche, sicuramente anche sul mondo Android, infatti dopo il kit adesso stiamo integrando anche il sistema sanitario anche di Android, sicuramente adesso è un mercato molto interessante anche a livello di Android. La valutazione nostra che stiamo facendo adesso questi giorni riguarda un po' più che altro Windows, cioè capire i tempi di entrata su quel mercato. Bene, Sara, ti ringrazio per essere stata con noi e ti auguro in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Storie di idee che diventano applicazioni, che diventano servizi, diventano aziende. Alcune devono ancora trovare un loro, non tanto business model, ma un loro equilibrio economico. C'è invece chi ha, si dice, svoltato perché ha fatto la exit, si dice in termine da startupparo. Gook Kim, che è country manager di Zomato, ma prima aveva fondato Cibando. Gook, benvenuto 2024. Grazie a voi. Partiamo dalla prima tua società. Avete fondato Cibando, che si occupava, come dice il nome, di cibo. Quella era un'applicazione che si rivolgeva a chi e per far cosa? La nostra applicazione si rivolgeva ovviamente ai consumatori che stavano cercando i ristoranti come me, per risolvere un problema molto semplice, cioè quello di trovare i ristoranti. Noi siamo partiti nel 2010, verso fine 2010, partendo direttamente sulla piattaforma di iOS, quindi della Apple. Abbiamo sviluppato un'applicazione che poi istantaneamente, il giorno successivo che abbiamo rilasciato sul mercato, molti utenti l'hanno scaricato e abbiamo cominciato a trovare i ristoranti utilizzando una nostra applicazione. Nel corso degli anni siete cresciuti e siete stati acquisiti da Zomato, sì, che sostanzialmente fa la stessa cosa, fa una cosa simile a livello globale, giusto? Esatto, la differenza tra Cibando e Zomato è che ovviamente Zomato è presente in 22 paesi, la grandezza dei dipendenti sono più di 1700 in giro per il mondo che aiutano gli utenti a trovare questi ristoranti. La differenza principale tra Cibando e Zomato è anche il fatto che con Zomato raccogliamo molte più informazioni sui ristoranti. Infatti una di queste attività che facciamo più spesso è visitare i ristoranti uno ad uno, proprio per raccogliere i menu dei ristoranti, così l'utente che utilizza la nostra applicazione vede sia le informazioni basilari come gli orari di apertura del ristorante, ma anche, molto importante, il menu del ristorante direttamente. E siete specializzati nei ristoranti? Sì. Ristoranti, bar, pasticcerie, qualsiasi posto ristorativo, noi ce l'abbiamo dentro la nostra applicazione. Posso dire che il vostro competitor principale, o voi siete il competitor principale di TripAdvisor? Sì e no. Sì e no, perché TripAdvisor ovviamente è ovviamente il leader di mercato in Europa. Noi ovviamente il nostro obiettivo, il nostro ambizioso è quello di superarlo. La cosa che ci differenzia tra TripAdvisor e Zomato è il fatto che comunque noi ci basiamo moltissimo sui contenuti che generiamo noi per i nostri utenti, fare in modo che sono sempre corretti e sempre aggiornati. Infatti una cosa che facciamo sempre è visitare i nostri ristoranti almeno una volta ogni 1-2 mesi, proprio per fare in modo che il menu è sempre aggiornato. Quindi la sicurezza che vogliamo dare ai nostri utenti è che se utilizzano la nostra applicazione ricevono sempre le informazioni più aggiornate, mentre con TripAdvisor ovviamente è utile perché ci sono tanti utenti che lo utilizzano e lasciano recensioni, però è anche vero che è molto dispersivo perché non solo fa i ristoranti ma fa anche molti altri posti turistici. Sì, senti, possiamo dire che grazie alle applicazioni tu ti sei creato non solo un lavoro ma una vera e propria azienda? Sì, secondo me questo ovviamente l'App Economy è stata importantissima per noi. Noi abbiamo fatto una scelta che in quei tempi era difficile, però poi il risultato è stato molto utile, una scelta vincente, cioè quello di partire direttamente sulla piattaforma iOS. Abbiamo ovviamente assunto tanti sviluppatori per lavorare su questa piattaforma, tantissime persone lavorano dietro questa applicazione per aiutare gli utenti a farlo, e per noi è stato molto importante perché una delle ragioni perché Zomato ha deciso di acquisire Cbund era il fatto che la nostra applicazione per iOS è stata fatta molto bene, quindi una funzionalità che abbiamo deciso di trasportare da Cbund in Zomato è il fatto di cercare i ristoranti facendo un cerchio sulla mappa. Sì, si dice che le applicazioni o comunque il modo con cui è possibile creare e realizzare un'applicazione ha reso molte cose facili, semplici. Sei d'accordo o è più una leggenda che una realtà? No, sicuramente è molto più semplice. Ormai non c'è bisogno di portare niente in giro, basta il cellulare e si ha tutto tra le mani. Prima si doveva portare la mappa in cartacea in giro, invece con l'applicazione direttamente dal cellulare so esattamente dove devo andare perché utilizzo tutte le mappe direttamente. Certo, questo è lato utente, ma lato sì, diciamo erogatore del servizio, cioè chi realizza servizi. Naturalmente stiamo parlando di cose che potevano nascere prima su internet. Ecco, dal momento in cui è nata la possibilità di creare applicazioni, le cose secondo te si sono semplificate? Sì, secondo me sì. Secondo me sì. Poi con avanzare del tempo, anche per le persone che devono sviluppare le applicazioni, ci sono sempre nuove tecnologie per velocizzare lo sviluppo e ridurre i costi e anche i tempi di realizzazione di questi servizi. Quindi questo sicuramente. Senti, un servizio come il vostro come potrebbe evolvere? Cioè, se uno guardasse al next big thing del vostro business, che cosa potrebbe pensare? Ma al momento nel nostro settore c'è tantissimo movimento, c'è tantissimo fermento, specialmente con il fatto con le prenotazioni dei tavoli direttamente utilizzando il cellulare oppure facendo senza dover chiamare il ristorante ovviamente. L'altra parte è ovviamente l'online delivery, che tutti quanti ne stanno parlando, ci sono tantissimi player sul mercato italiano che si stanno entrando, anche Zomato in Italia entrerà in quel settore sicuramente nei prossimi mesi, ma poi ci sono tantissime altre funzioni. Una cosa che stiamo cercando di sviluppare in alcuni paesi di Zomato è quello di poter entrare nel ristorante, ordinare e pagare direttamente dal cellulare. E credo che questo sia the next frontier, diciamo, nel questo settore. Sì, prenotazioni di tavoli, consegna a domicilio e anche pagamenti, nel vostro caso, dei ristoranti, ma poi questa modalità può essere estesa anche ad altri settori. Esatto. Il nostro obiettivo come Zomato è quello di aiutare l'utente a scegliere il ristorante, no? Quindi a fornire più informazioni possibili e poi cercare di servirlo in tutta l'esperienza che lui fa all'interno del ristorante o fuori dal ristorante, ovviamente, anche con tramite l'online delivery. Sì. Senti, il vostro modello di business qual è? Come fate i soldi? Ci sono tantissime, ci sono all'incirca 4-5 business model diversi. Questo ovviamente dipende moltissimo dalla maturità del mercato. Per esempio in India e in Dubai, dove Zomato è nata e poi comunque ha operato per gli ultimi 4-5 anni, business model sono vari. La prima ovviamente è il modello pubblicitario. Noi facciamo la raccolta pubblicitaria da parte dei ristoratori, dove loro ci pagano per avere una migliore visibilità. Dall'altra parte c'è la online delivery, dove noi prendiamo le commissioni per ogni ordine che riceviamo da parte dei nostri utenti. ci sono ovviamente anche sulla parte del table reservations, quindi prenotazioni di tavole direttamente dai nostri utenti, dove noi chiediamo una fee diretta da parte dei ristoratori, e dall'altra parte per il fatto di pagare tramite il cellulare, anche lì c'è ovviamente una piccola percentuale che chiediamo. Chiarissimo. Senti, oggi quanti siete a lavorare su questa applicazione in Italia? Quasi 30, e prevediamo di arrivare all'incirca 200 nei prossimi 2 anni. Tu hai prima detto, noi siamo nati con iOS, con Apple. Oggi sì. Qual è il tuo atteggiamento rispetto ai due mondi principali, o comunque Android come in termini di dimensioni il primo mercato, iOS e anche Windows Phone, se ci vogliamo aggiungere anche questo mercato che è molto piccolo per il momento? Sì, noi anche se è un mercato piccolo, Windows Phone lo trattiamo come ovviamente tutte le piattaforme. Noi siamo presenti in entrambe, in tutte e tre piattaforme, sia iOS, Android che Windows Phone. Credo, io sono contento che ci siano più piattaforme che stanno nascendo, perché questo permette comunque a tutte le piattaforme di migliorarsi ancora di più, no? Di farsi concorrenza per migliorare ancora di più il servizio verso i consumatori. Ovviamente per la parte degli sviluppatori è un po' più caotico, perché bisogna sviluppare molte più applicazioni, ovviamente. Però secondo me è il modo giusto per aiutare più consumatori a avere più scelta e aiutarli a loro ad avere una buona esperienza. Quindi siamo ancora lontani dalle web app? Secondo me sì. Secondo me sì, l'esperienza è molto migliore su un'applicazione nativa che su una web app. Guk, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. Potremo continuare nelle prossime puntate, ma di fatto poi a 2024 raccontiamo la App Economy attraverso spesso le interviste che facciamo alle startup, ma se volete e desiderate potete segnalare una storia che avete letto, che conoscete, al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Questa è la versione podcast del nostro programma, tutte le nostre interviste in versione integrale. Questa settimana abbiamo una puntata piuttosto abbondante in podcast, invece on air sempre il venerdì tra le 22 e le 23, domenica tra le 13 e le 13:30. Tra poco David Orban. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate naturalmente su Facebook, Twitter e anche sul nostro nuovo sito internet, e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast, che vi permette di avere a disposizione la nostra puntata settimana dopo settimana in modalità automatica sullo smartphone, sul tablet, sul computer. Tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori che la nostra versione podcast ha tutte le nostre interviste in versione integrale. A volte per ragioni di spazio non abbiamo tempo per inserire tutte le nostre interviste nella nostra puntata, invece nella versione podcast c'è spazio e quindi lì potete ascoltarle in tranquillità per intero. Questa settimana l'autorità di regolazione dei trasporti, che è una delle ultime, direi l'ultima authority indipendente che è nata nel nostro paese, ha scritto al Parlamento sollecitando un rinnovo delle norme che riguardano il trasporto pubblico non di linea, interessa la mobilità urbana, sostanzialmente le norme che regolano i taxi, il noleggio con conducente, eccetera eccetera. Sono norme, secondo l'autorità, ma secondo molti esperti, ormai datate, che sono state scritte e pensate quando non esistevano le applicazioni, le app per smartphone, e oggi questo mondo, lo sapete benissimo, è soggetto a una rivoluzione, anche in alcuni casi molto energica, molto forte, e in altri tanti casi che va oltre le regole, ma regole che non avevano previsto l'arrivo di applicazioni per smartphone. Quindi di fatto possiamo dire queste novità che sono arrivate nelle città di tutto il mondo non potevano essere pensate all'epoca di queste leggi, parliamo di leggi insomma di alcune decine di anni fa. Allora l'authority dice bisogna dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule di trasporto non di linea, diverse dai servizi di taxi e noleggio con conducente, basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale. E quindi l'Authority fa riferimento anche alle applicazioni che possono essere utilizzate da persone per dare un passaggio ad un'altra persona all'interno di una città. Se facciamo riferimento ad esempio a Uber Pop, recentemente un tribunale italiano ha dichiarato Uber Pop illegale rispetto alle regole che ci sono oggi. L'autorità dice che quelle regole vanno riviste tenendo conto dell'innovazione tecnologica. Oh, attenzione, l'Authority dice non è che bisogna liberalizzare tutto e ognuno fa quello che vuole, bisogna mettere dei paletti, però tenendo conto dell'innovazione tecnologica e delle novità che sono arrivate nel corso degli ultimi anni. Oggi si possono fare cose quindi diverse da quelle che si potevano fare qualche anno fa, e quindi bisogna tenere conto di questo. Lo diciamo spesso 2024 che la legge, ma questo vale spesso e sempre, non solo con la tecnologia, è molto più lenta al cambiamento rispetto alla realtà, ma in ambito tecnologico, in alcuni ambiti, soprattutto quello del trasporto urbano è uno di quelli, è una rinnovata bisogna sicuramente darla. Quindi ben venga il sollecito dell'autorità verso il Parlamento, e vedremo se sarà il Parlamento a raccogliere questo invito o sarà il governo, un ministero, insomma qualche cosa bisogna fare sicuramente per mettere un po' d'ordine a questo settore che va rinnovato. Poi sicuramente una buona parte dell'innovazione la devono fare anche i protagonisti, quindi anche il settore taxi, che ha sicuramente innovato dopo l'arrivo di alcune applicazioni, di alcune società internazionali, però molto può essere fatto. Dunque, adesso è con noi David Orban per parlare di uno dei mega trend, per parlare di quello che deve essere fatto, delle condizioni necessarie ad un vero sviluppo della Internet of Things, uno dei grandi trend di cui parliamo spesso 2024. David Orban è amministratore delegato di DotSub e anche Technology Evangelist alla Singularity University. David, bentornato a 2024. Grazie. Noi parliamo di Internet of Things, che tu ci tieni a sottolineare traducendolo in italiano, ebbene definire non Internet delle cose ma Internet degli oggetti, e questo è importante. Perché? E le cose io le vedo categorie più astratte, possono essere pezzi di codice, possono essere idee, possono essere importanti elementi che acquisiranno la loro autonomia e si collegheranno in rete. Ma quando gli inglesi americani parlano di Internet of Things, si riferiscono effettivamente ad oggetti fisici, ed è per quello che ci tengo a questa diversa traduzione. Che non è così comune, perché spesso viene tradotta con Internet delle cose, che questo è molto importante. C'è un aspetto importante tecnologico che noi commentiamo spesso a 2024, però probabilmente se noi parliamo di tecnologia tutto è già stato fatto o quasi tutto è stato fatto, cioè siamo di fatto pronti per questa rivoluzione che sta accadendo, ma siamo ancora molto agli inizi, allo 0.1 forse. Ci sono delle previsioni di analisi e di report realizzati da esperti che dipingono scenari veramente incredibili. E la trasformazione tra questo sogno futuro fantascientifico e la realtà di oggi, connettere questi punti, dipende da molte condizioni a contorno. Una delle condizioni naturali dal punto di vista di una grande azienda è di mantenere la propria posizione dominante, che giustamente è costata tanta fatica. Tu da amministratore delegato o consiglio di amministrazione prometti agli azionisti che durerà per sempre, ma non c'è nessuna garanzia che questo avvenga. E quindi nel momento in cui si presenta una novità, dal tuo punto di vista questa può essere una minaccia. Un po' come la fotografia digitale è stata una minaccia, alla fine abbiamo visto, mortale per Kodak. Sì, o il touchscreen sugli smartphone per altre aziende. Assolutamente. E come si può o non si può abbracciare le novità radicali? Come il sistema immunitario dell'azienda diminuisce la probabilità che questo avvenga con successo? Magari lo approfondiamo in un'altra puntata. Specificamente ad Internet degli oggetti, che cosa questo comporta? Che troppo spesso le proposte delle grandi aziende arrivano da un punto di vista di preservare una condizione esistente e quindi rinunciano o addirittura cercano di soffocare essenziali criteri di interoperabilità o di capacità di agire senza preautorizzazioni, che è paradossale perché è una lezione che abbiamo già imparato negli ultimi 20 anni, forse anche di più, attraverso il software che si è sviluppato prima in modo proprietario e poi in modo preponderante attraverso l'open source. Tuttora sui nostri desktop utilizziamo Microsoft Windows oppure macOS e ci sono pochi appassionati che utilizzano Linux sul proprio desktop. Ma né i sistemi back-end delle grandi aziende come Google, Twitter o Facebook potrebbero esistere senza la rivoluzione open source di Linux, né di fatti potrebbero esistere i nostri telefoni cellulari, perché il sistema operativo dominante Android è esso stesso open source da una parte e dall'altra parte è una grande eredità che riconosce a Linux. Beh, diciamo, facendo riferimento all'open source e a Linux come rappresentante più semplice da comprendere, è anche uno degli esempi più grandi se guardiamo le dimensioni del fenomeno. Beh, se pensiamo a Linux, quasi tutto quello che noi utilizziamo funziona grazie a Linux. Esattamente. Le banche, tanti servizi. E quindi l'internet degli oggetti, se non capisce questa lezione, sì, andrà a proporre soluzioni che ripercorreranno delle battaglie inutili. Per anni. Allora, se ho capito bene, io sono andato recentemente ad alcune fiere in cui c'era una grossissima attenzione verso uno dei mega trend, la smart home, la home automation, e una delle cose che si vedono molto chiare è che ognuno sta andando per la propria strada e fino ad oggi questa promessa della smart home non si può nemmeno realizzare, perché se io compro la videocamera del produttore A e l'allarme del produttore B, non esiste uno standard e molti si stanno interrogando su quali saranno gli standard o quali saranno le aziende, e molti pensano a Google o a Apple, che riusciranno a integrare, a fare da hub, da collettore di tutti questi strumenti che chissà se avremo nelle nostre case. È un po' questo il concetto o è ancora più esteso? Ci sono sicuramente degli aspetti di questo tipo che si potrebbe anche facilmente superare. Difatti, in precedenti rivoluzioni l'abbiamo visto, tutti puoi bene o male sedere in un qualunque automobile e saprai come usarlo perché c'è stata una standardizzazione e nessuno oggi immagina di impedire ad un eventuale nuovo costruttore di automobili di utilizzare quello il volante. Standard, certo. No? Certo. Mettiamo che Tesla avesse cominciato a produrre le proprie macchine ed arriva General Motors e dice no, tu fai pure un'automobile, però non può avere 4 ruote. E allora, proprio settimana scorsa, gli ultimi giorni di maggio, sì, c'è stata una decisione molto pericolosa da parte di una corte americana che ha dato ragione ad Oracle nel proibire di sviluppare funzioni che si comportano in modo simile, pur prendendo approcci diversi, ad una software house, cioè di dare un controllo proprietario alle cosiddette API, Application Programmer Interface, che è la strada perfetta perché un domani qualcuno prenda una decisione legale del tipo che ho espresso nell'esempio delle automobili. Questo è la seconda volta che autorità giudiziarie americane, una corte americana, prende una decisione a favore delle aziende molto molto importante. La prima è stata quella che ha, con Grokster, condannato a 20 anni di sviluppo rallentato le tecnologie peer-to-peer, da pari a pari, che sono state demonizzate, criminalizzate, mentre rappresentano anche per Internet degli oggetti uno sbocco essenziale. Aggregare i dati nei data center centralizzati non è solo un enorme spreco di risorse, non è solo un modo meno ottimale di quanto potrebbe essere di organizzare lo scambio di informazioni. I nostri due cellulari oggi, in questo istante, dovrebbero parlarsi fra di loro di quali app scambiarsi, in base ai nostri profili e le preferenze. Certo, sì. Ma l'aspetto più preoccupante di questo tipo di architettura è che implementa quei colli di bottiglia che una o l'altra delle nazioni sfruttano con gioia, perché sono delle vulnerabilità, attraverso azioni spionistiche di tipo politico o economico. Quindi, concetto molto importante, Internet degli oggetti si diffonderà, svilupperà in tempi anche magari abbastanza brevi, se si sposa completamente il concetto open source. E della interoperabilità, e preferibilmente anche un'architettura distribuita peer-to-peer. Secondo te questa sensibilità c'è o no? È molto interessante che la innovazione matematica del blockchain, che caratterizza Bitcoin, e tu dici cosa c'entrerà Bitcoin, è una roba finanziaria di pagamenti, in realtà quello che permette è di organizzare reti dove, in presenza di informazioni imperfette, la rete stessa può raggiungere un consenso dove non ci sia un'autorità centrale che regola questo consenso. Tradotto nel linguaggio dell'Internet degli oggetti, ci possono essere oggetti che comunicano fra di loro senza che ci sia uno switch, un router, senza che ci sia un data center, e comunque possono raggiungere decisioni su come operare. E infatti ci sono dei prototipi di infrastruttura internet importanti che lavorano già all'interno di laboratori di ricerca basati sul blockchain, perché rappresenteranno una rivoluzione fondamentale ed importante dell'intera architettura di internet e di internet degli oggetti. Una delle cose che si citano spesso, soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale, ma penso che valga anche quando si parla di internet degli oggetti, è il grande tema della regolamentazione, delle leggi che dovranno cambiare, ma c'è anche un grande tema legato alla moralità, all'etica, che dovremmo forse ridiscutere. Che cosa c'entra tutto ciò con la internet degli oggetti e che cosa dovremmo cercare di fare, di cambiare? Oggi come oggi pensiamo di essere in sella e di fare le decisioni, piccole o grandi, che guidano la nostra vita. E quando risulta che non lo siamo, perché paghiamo tasse e non abbiamo deciso che quelle sono giuste o sbagliate come percentuale sul nostro reddito, oppure ci sembra che un voto che diamo in un'elezione politica alla fine conti poco, ecco, in quei momenti ci sorprendiamo, ci arrabbiamo. Arrabbiamo, certo. Ma questa situazione in cui deleghiamo decisioni a delle strutture più o meno automatizzate aumenterà in futuro. In effetti ci farà piacere farlo, perché se oggi abbiamo la pazienza di ricaricare il telefono, la telecamera, il computer, addirittura comprare le batterie esterne per tenerle cariche, e poi dobbiamo pensare a ricaricare la batteria esterna in una catena infinita, nel momento in cui questi saranno non una dozzina di oggetti attorno a noi, ma centinaia, migliaia o decine di migliaia per ognuno, non potremo gestirli, dovranno gestirsi autonomamente. L'esempio più lampante oggi, non ancora sulle strade di Milano o d'Italia, ma effettivamente sulle strade di San Francisco, California e Nevada, è la categoria delle automobili robotiche, come macchine autonome, nodi di Internet degli oggetti. Automobili a guida automatica. Esatto, dove la legge ancora richiede che una persona sia seduta, dotata di patente, ma in effetti al 100% la macchina dice, decide che cosa deve fare: curvare, accelerare, rallentare, scartare qualcuno che gli taglia la strada. E nonostante ci siano previsioni che l'incidenza di incidenti, di collisioni, possa diminuire radicalmente di oltre il 90% e risparmiare tantissime vite, è praticamente inevitabile che comunque ci saranno occasioni in cui la macchina deve fare, mettiamo, una scelta. Certo. Se io taglio la strada alla macchina in bicicletta e quella o mi investe o va a centrare uno scuolabus pieno di bambini, ha qualche frazione di secondo per decidere che cosa deve fare. Chiaro, sì. Ma noi oggi stiamo andando verso queste macchine senza avere una capacità ingegneristica del senso morale. Peggio ancora, non abbiamo una scienza dell'etica e della morale. Abbiamo la filosofia della etica della morale, o abbiamo le religioni, ma non è stato formalizzato e non possiamo demandare la formalizzazione di questo. Sì, ci sono anche degli scienziati che hanno, soprattutto a proposito dell'intelligenza artificiale, chiesto agli stati di intervenire. Però io sono abbastanza scettico che questo possa avvenire, e quindi penso che le aziende autonomamente creeranno dei sistemi automatici che andranno un po' per i fatti loro, cioè le aziende decideranno che morale dovranno avere i sistemi automatici. Tu hai fatto l'esempio dell'automobile, ma potremmo fare tantissimi altri esempi anche sulla, che ne so, la casa automatica, che prenderà delle decisioni al di là di quello che vogliamo noi. E ci saranno sicuramente degli esempi interessantissimi di problemi che si presenteranno. Io sono d'accordo con te sul fatto che un intervento di una nazione o di un insieme di nazioni, non so, le Nazioni Unite o la International Telecommunications Union, non è che sono meglio equipaggiati di chiunque altro di dire come la cosa deve avvenire. Non solo, non è desiderabile che ci sia un'unica decisione per i 7 miliardi o 8 miliardi di persone che siamo. Stati Uniti e Cina hanno una visione di come gli individui devono vivere la propria vita all'interno di una società diversa. Molto diversa. Sì, sì. E per fare un esempio un po' estremo, se io sono una donna sola al volante, e questo è verificato dalla telecamera interna dell'automobile, e il suo GPS rileva che mi trovo in Arabia Saudita, partirà o non partirà? L'automobile. E se l'automobile partirà, prodotta da Google perché si rifiuta di aderire alle regole morali del paese in cui si trova, beh, la sua commercializzazione verrà bloccata velocemente, un po' come è successo in effetti con il motore di ricerca in Cina, dove Google ha deciso di uscire da quel mercato. Sì, questo è sicuramente... tu sei scettico o E le aziende più intelligenti assumeranno una responsabilità proattiva verso la costituzione di ethics boards, cioè un consiglio etico che possa informare le decisioni dei product manager e degli ingegneri su come procedere con cautela, con attenzione, ma con decisione verso gli obiettivi. Sì. Un po' come le aziende biotecnologiche e farmaceutiche ce l'hanno già. Non sì. è che decidono, ma ti do sto farmaco, poi vediamo come va. Sì. Tutto quello di cui abbiamo parlato finora passa e o passerà sulle nostre teste. Cioè, quanto noi personalmente possiamo decidere o interagire con queste evoluzioni? La politica e le politiche sono in crescente ritardo su quella che è la capacità della tecnologia di avere un impatto nella nostra vita quotidiana. E in effetti riformare il modo in cui le regole che guidano la società vengono discusse, implementate, verificate, aggiornate, risulta una sfida fondamentale, altrimenti congeliamo la società, che creerà tensioni sempre maggiori con il quotidiano tecnologico che ci Senti, aiuta. Un ultimo punto che mi sembra importante che tu citi parlando dell'evoluzione della Internet of Things. La Internet of Things non funzionerà, non si diffonderà, almeno secondo certe previsioni che grandi aziende stanno facendo, se non diventerà biocompatibile, dico, è un termine corretto o sbagliato? Allora, nel mio caso assolutamente sì, ho un impianto che fa parte dell'Internet of Things nella mia mano, e questo impianto è isolato dal mio corpo attraverso una capsula di vetro, perché i suoi componenti altrimenti verrebbero visti come un corpo estraneo ed espulsi dal sistema immunitario del mio corpo. Allora, quando ricercatori e scienziati parlano di una fusione dell'essere umano con la tecnologia, la possibilità di interrogare Google con il pensiero, la possibilità di comandare questa rete di oggetti fatto da milioni di miliardi di nodi, non potrà avvenire senza esserne influenzati radicalmente. Però sia che sia dentro il nostro corpo, come nel mio caso, oppure nell'ambiente, progettare, distribuire, manutenere ed eventualmente eliminare, sostituire questi nodi potrà avvenire solo se sono biocompatibili quando dentro, biodegradabili quando fuori, perché è già successo. Cioè, abbiamo messo parecchi decenni per capire che le sporte della spesa, sì, invece di essere fatte di plastica, è meglio che siano fatti di una plastica biodegradabile di origine mais, anche nel momento in cui la resistenza tensile di questa soluzione fosse un po' meno grande di quelle tradizionali, perché non inquiniamo l'ambiente. I nostri computer oggi sono verdi, fra virgolette, un po' più verdi rispetto a qualche anno fa, ma devono diventarlo radicalmente di più. Quindi un altro punto fondamentale, importante, non so però se questo, cioè, mentre comprendo più facilmente che se non si riesce a trovare una strada open source, tutto questo non funziona come dovrebbe funzionare, come potrebbe funzionare in modo efficiente. Non so se riusciamo a trovare un accordo per creare una internet degli oggetti biodegradabile. Cioè, non c'è bisogno di trovarlo l'accordo, perché Microsoft sarebbe stato felicissimo a vendere licenze di Windows NT a tutti i data center del mondo. E quando i suoi venditori si presentavano e si trovavano di fronte a Linux, semplicemente non erano in grado di chiudere l'affare. Quindi, se qualcuno è in grado di trasformare, per esempio, come ci sono già degli esperimenti, il DNA in una piattaforma di calcolo parallelo per scopi informatici nostri invece che quelli del corpo animale o corpo umano, ecco, quella piattaforma di calcolo sarà, si immagina, estremamente potente, estremamente performante e per definizione biocompatibile e biodegradabile. E allora, se questo criterio conta, quella piattaforma vincerà. Davide, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a te. Concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver ascoltato fino a questo punto la nostra trasmissione. Questa settimana ci siamo un po' allargati e avevamo a disposizione interviste lunghe e allora ho deciso di inserirle ugualmente, come facciamo solitamente, nella versione podcast del nostro programma. Bene, continuate a scriverci e a rispondere alla nostra domanda su come ascoltate 2024 in podcast. Ci sono alcuni nostri ascoltatori che ci ascoltano mentre nuotano in piscina e alcuni di questi ascoltatori ci hanno anche detto cosa utilizzano, che tipo di cuffiette. Un ascoltatore ci ha anche detto che le cuffie che utilizza non sono perfettamente, forse non sono adeguate a un buon ascolto, quindi dico cosa devo utilizzare per ascoltare bene e non sentire il disturbo dell'acqua. Adesso ho interrogato alcuni dei nostri esperti, attendo risposta, quindi vi daremo risposta anche su questo. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Passate parola, fate abbonare al podcast altri ascoltatori per diffondere, più che quello che facciamo noi, insomma, il motivo principale perché ci siano più persone che comprendano l'importanza della tecnologia nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nella pubblica amministrazione. Torniamo la prossima settimana, speriamo che la prossima settimana venga approvato il famoso decreto comunicazioni che dovrebbe dare il via a questo piano banda ultra larga. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 31 seconds.